Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Questa sera torniamo a Trieste, più precisamente al sincrotrone Elettra, una delle infrastrutture di ricerca più avanzate in Italia, una sorta di macchina fotografica per indagare la materia a livello molecolare. Per quanto possa apparire paradossale, la parte più difficile di questa macchina fotografica è il flash. Per vedere le molecole, infatti, bisogna illuminarle, ma la luce visibile è inutile a questo scopo. Sarebbe un po' come cercare di sentire le rugosità di una superficie indossando dei guantoni da box. Il sincrotrone è un grande anello di circa 80 metri di diametro che serve a produrre questo flash, un intenso fascio di raggi X, che permette di rivelare dettagli come la struttura delle molecole, quella dei minerali per esempio, o la struttura delle proteine. Dall'anello si staccano numerose linee a raggi X che corrispondono ad altrettanti esperimenti in corso, e la notizia è che se ne sono aggiunte due. La prima si chiama XRD2 e permetterà di studiare la struttura tridimensionale delle proteine e delle macromolecole biologiche. La seconda, di cui parliamo stasera, si chiama invece XPress e permetterà di studiare materiali sottoposti a delle pressioni, direi, mostruose. Ne parliamo con Andrea Lausi, ricercatore di Elettra, responsabile della linea XPress. Buonasera Lausi. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di aver chiamato. Senta, allora voi dovete scattare queste fotografie, diciamo, un po' particolari, mentre il campione si trova anche dentro a una pressa potentissima. Che pressioni raggiungete e come si svolge uno di questi esperimenti? Beh, dunque, le pressioni che raggiungiamo sono al momento intorno ai 500.000 atmosfere. 500.000 atmosfere, benissimo, sì. Allora, ciò a cui ci viene in aiuto il sincrotrone è proprio il suo flash, il poter mettere molta energia, molti fotoni, molti raggi X in uno spazio molto piccolo. Perfetto. Perché il nostro campione è ovviamente piccolissimo, sta fra le punte di due diamanti che noi usiamo per premere l'uno contro l'altro con il campione nel mezzo e raggiungere così queste pressioni ultra elevate. Ecco, che sono pressioni che si trovano in natura, dove si trovano pressioni di questo genere? Nella crosta terrestre a qualche chilometro di profondità. Si raggiungono queste pressioni. Tra l'altro la preparazione di questo campione, c'è tutta una procedura molto particolare. Non so se brevemente ce la può ricordare. Allora, queste celle a incudine di diamante, che se uno cerca su Google Diamond Anvil Cell, Trova un sacco di immagini, un sacco di immagini di diverse forme e fogge di queste, sono fatte appunto con due diamanti premuti all'interno di una struttura metallica, una specie di schiaccianoci con viti, sì, o con membrane di gas che premono. E la procedura è più o meno questa: uno prende un dischetto metallico di un decimo di millimetro di spessore, lo mette in mezzo ai due diamanti, preme una prima volta, fa un'indentatura. L'indentatura ovviamente ha la dimensione della punta del diamante, quindi è un terzo di millimetro, sì, diciamo. Lì al centro bisogna fare un forellino che sia un terzo di questo, sì, cioè 100 quindi un decimo di millimetro. E lì dentro ci si mette il campione con tutta una serie di cose, però. Il campione, un pezzettino di rubino che servirà con la fluorescenza a seguire l'evolversi della pressione, e anche un mezzo idrostatico, che può essere un gas o un liquido, che permetta alla pressione di andare in ogni direzione, non solamente lungo l'asse dei due diamanti. Certo, a questo certo, punto certo. Si richiude il tutto con cautela, si comincia a premere, si mette sotto i raggi X e pressione dopo pressione si prendono delle immagini di diffrazione, la chiamiamo, è una tecnica molto ben sviluppata, sì, per sapere dove stanno gli atomi all'interno dei materiali. Le posizioni degli atomi ovviamente premendo cambiano e quindi in si vede continua, mano a mano che si preme, si esercita pressione, come cambia la struttura della materia, no? Il modo in cui gli atomi sono organizzati fino ad arrivare anche a delle rotture, no? Immagino che stesse per dire questo. Senta, certo, ma che tipo di materiali si studiano con queste tecniche? Due grandi classi di materiali possiamo studiare: quelli correlati con le scienze della Terra, cioè sì, olivine, spinelli, i costituenti della, cioè appunto quei minerali che si formano solo a qualche chilometro di profondità, come, esatto, stava spiegando prima, sì, per le pressioni elevate. Infatti, oppure nuovi materiali, perché se io avvicino gli atomi fra loro, gli elettroni si riarrangiano in un qualche modo, succedono reazioni, cambiano le strutture e ottengo nuovi materiali. Ad esempio, uno degli esempi che mi piace sempre fare sono queste sfere di diamante nanopolicristallino, che poi sono adesso usate, effettivamente sono state ottenute a altissime pressioni, adesso sono anche usate per ottenere punte di taglio di diamante, essendo questo nuovo materiale più duro del diamante stesso. Ecco, abbastanza notevole. Tra l'altro il diamante è carbonio, sottoposto a delle pressioni molto elevate, altrimenti il diamante non si forma. In pratica è come se si fosse riusciti a fare un composito di diamante ancora più duro del diamante, una cosa sì. Di questo genere. Esatto. Esatto, si parte dalla grafite e si preme e a una certa pressione avviene questa trasformazione in nanodiamanti che poi vengono sinterizzati assieme in un pezzo che può servire. Va bene, grazie Andrea Lausi. Grazie a lei, grazie a voi.